Ora va ognuno in fimo in quattro. Si come arredo con sto ritmo che ho pazzo. Si ne muoia qua e siamo ognuno e ognuno. Tutti che parliamo che è una situazione buona. Le mani all'aria ogni minuto ogni ora. La vagnone che sta balletta e sta tocca la mano. Tutta la serata ma la switchiamo. Siamo baciamo, senti come un punto. Il mio stile è sempre più giocondo. La mia strofa conquista la carrozza. La ricalo come una mimosa. All'incico quando stacco dai fadia. Più sto ritmo che mi dai l'allegria. E in compagnia di libra di mia. Zica canta sta poesia. Ecco un altro ritmo che facciamo la seconda. Vince ormai sta vibrazione. Tra la capo non ci basta. Non mi becchio firmare. Non ti faccio traccare. E quando canto io non c'è più niente da fare. Sentimo lo busco sempre sveglio su se trofe. Cate faccio ballare intorno a mosi neve ore ore. La musica fa di stare solo con cristiani buoni. Cantrona del sol non vedi loro con pieni. Tutti che ballamo che è una situazione buona. Le mani all'aria ogni minuto ogni ora. La bagnone che sta ballando sta tocca la mano. Tutta la serata male spicciamo. Tutto che balla faccio una situazione buona. Le mani all'aria ogni minuto ogni ora. La bagnone che sta ballando picchia la mano. Tutta la serata vita brutto spacciamo. Le uognone le uognone da camo sono doia. Cacci verso bappa ghiata male non verna siamo da chiove. Non è somma o solo la luna. Ma non crede ne buona. Dice stata città ne pezzane mo fuma. Fuma e consuma come a marcia ledda. Cazzi che cangiaman mo coltivano la terra. La vibrazione è buona ma non può restare ferma. Mo brucia Babilonia la conferma. Sento lo suono di sta musica che viene lontana. Chi la sente, chi la sente, chi mezzica la ciana. Chi la sente, chi la sente, chi mezzica la rima. Questa canta lumi moci come ogni mattina. E poi invece gli cristiani che vanno tutti a ballare. Chiano chiano lo volume che mozzica a chianare. Chiano chiano la danza che mozzica a salire. Io qua della staccante fuma da sentire. Tutti che ballamo che è una situazione buona. Le mani all'aria ogni minuto ogni ora. La bagnone che sta ballando e sta tocca la mano. Tutta la serata male spicciamo. Libera la capo tua, lascia stare gli pensieri. No battaccia che ha fatto ieri. Non ti scusate di dire non si ferma mai. E noi continuiamo fino a crai. Tutto che balla faccio una situazione buona. La mano all'aria ogni minuto ogni ora. La guagna da casa balla picchia la mano. Tutta la serata vita brutto spacciamo. Libera la capo lascia stare a pensiero. Non si pensa non c'ha fatto ieri. Un disco che mo giro non si ferma mai. Nunca continuiamo fino a crai. Sopra mari, ballando la lezione. Questo ritmo di capo mi ho. Di la sera, fino alla mattina. Ballando sempre tutta la danza divina. Ogni persona la senti più vicina. Tra sto stile, cana comuna. Ballando sempre sotto un chiaro di luna. Finché la stanchezza non è consuma. Voglio rilassare tutte quante i problemi. Invece tra sto mondo, ogni cristiano sta le idee. Ma sta vita a camminare come una bici senza freni. Meglio che noi divertimo, così stiamo tutti buoni. Buoni che buoni, l'urito ma l'ha mappiato. Zumpa, muzzuffa, così sto più bruciato. Brucia che brucia, lo fai contrastare il sol. Stattimo, stati, che io di qua non mi. Tutti che ballamo che è una situazione buona. Le mani all'aria ogni minuto ogni ora. La bagnone che sta ballando e sta tocca la mano. Tutta la serata male spicciamo. Tutto che balla faccio una situazione buona. Le mani all'aria ogni minuto ogni ora. La bagnone che sta ballando picchia la mano. Tutta la serata vita brutta spacciamo. Quella cancia buona ti devi dare da fare. Per fare qualcosa che sia costruttivo. Qualcosa che si opponga al suono distruttivo. Qualcosa che rimuova più preciso di un mirino. Fra sono sincero tutti attacchi come colla. Ma io me ne sbatto mi appiccio una tragiolla. In aria con la testa ma mi scoppia ma di bolla. Arrivo sempre solo se so caccia che rolla. Si con la magnona con la mano. E la porto in trust sueno. O insieme qua sta ballamo. Cuore a cuore sempre più vicino. E sta musica ne face sognare. Sempre dei chiudi la giù cantare. E mo senti stu vagnone. Faccia amore su tu cose buone. Mena mo ballamo tanta danza. Casta musica è piena di sostanza. Casta musica è piena di amore. E insieme la ballamo tutte le ore. E lo dicono pure l'amici mia. Capura loro sta musica sta ria. E la cantiamo mo tutta insieme. Casta musica ne faccio stare buone. Tutti che ballamo che è una situazione buona. Le mani all'aria ogni minuto ogni ora. La bagnone che sta ballando e sta tocca la mano. Tutta la serata male spicciamo. Libera la capo tua lascia stare gli pensieri. No battaccia che ha fatto ieri. Non ti scusate il giro non si ferma mai. E noi continuiamo fino a crai. Tutto che balla faccio una situazione buona. Le mani all'aria ogni minuto ogni ora. La bagnone che sta ballando picchia la mano. Tutta la serata vita brutta spacciamo. Libera la capella senza la pensiero. Non si pensa non c'è fatta ira. Il disco che mo giro non si ferma mai. Nunca quando l'uomo fino a crai. Tutti che ballamo che è una situazione buona. Le mani all'aria ogni minuto ogni ora. La bagnone che sta ballando e sta tocca la mano. Tutta la serata male spicciamo. Libera la capo tua lascia stare gli pensieri. Non battaccia che ha fatto ieri. Non ti scusate il giro non si ferma mai. E noi continuiamo fino a crai.